известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. She had been to the protest on Saturday, according to her singing instructor, who we saw at the private memorial service that was held later. He said together with few other. Non tramonta, non si spegne la emozione che circonda questa personalità in attesa che è emersa dal grande bailam, dalla grande turbolenza delle elezioni presidenziali in Iran. Quella che ascoltate è la voce di una corrispondente del New York Times dall'Iran, che ha fatto le sue indagini, le sue ricerche, ha messo insieme un po' di informazioni relative a Neda Agha Soltan. Adesso abbiamo il nome completo di Neda, la ragazza che è diventata un simbolo di queste giornate, di questa anche intensa inquietudine popolare e di questa emozione globale. E vi abbiamo qualche informazione in più, ve la diamo con piacere e con rispetto. Neda non aveva, come si era detto inizialmente, come era circolata voce, 16 anni, bensì 26 anni, era una ragazza con interessi essenzialmente carattere culturale più che politici, e soprattutto il giorno della sua morte si era già allontanata dalla manifestazione insieme alla persona che lo accompagnava, che era il suo istruttore di canto, e perché cantare era la sua segreta passione, segreta per forza, perché è vietato alle donne cantare pubblicamente nella Repubblica dell'Iran. Ebbene, si era allontanata, aveva raggiunto la macchina, era rimasta impressionata e spaventata da uno scontro di piazza che si era svolto a pochi metri dal punto in cui si trovava, perché aveva deciso di partecipare alla manifestazione, ma ha deciso di partecipare alla manifestazione come tanta gente fa in alcuni casi in cui un'emozione popolare, no, percorre una nazione o una metropoli come Teheran. Lei era per la libertà, voleva la libertà per tutti, racconta questa giornalista che ha parlato con alcuni parenti stretti di Neda, però non aveva mai dimostrato particolare passione o sostegno per un candidato. Lo conferma anche Caspian Makan, che è il fidanzato di Neda, venuto anche lui allo scoperto per celebrare la personalità della ragazza che se n'è andata. Insomma, aveva già raggiunto la macchina insieme alla sua accompagnatrice, e poi faceva molto caldo in macchina, hanno deciso di scendere e di fare quattro passi a piedi per prendere una boccata d'aria, che sarebbe stata fatale, perché un singolo colpo sparato da un cecchino, probabilmente da una finestra, avrebbe colpito Neda in pieno petto. Le sue ultime parole sarebbero state mi brucia, e poi quelle immagini riprese probabilmente con un cellulare o con una telecamera, una piccola telecamera, che hanno fatto immediatamente il giro del mondo e che hanno fatto di Neda un simbolo attorno al quale naturalmente può anche aggregarsi una protesta, una inquietudine che in queste ore così delicate in Iran può diventare anche una questione seria di ordine pubblico. Il proiettile l'ha colpita esattamente al cuore, è spirata dopo pochi istanti, ed è stata anche seppellita poche ore dopo la sua morte, perché così emissari governativi hanno immediatamente ordinato alla famiglia, senza funerale, senza cerimonia di alcun genere, perché non si voleva che la cerimonia diventasse occasione per nuove proteste. Alcune persone si erano raccolte attorno alla moschea di Nilofar, dove c'è stato l'ultimo addio a Neda, non più di una settantina di persone, ma sono state immediatamente disperse da alcuni agenti della Guardia Nazionale in motocicletta. Non è stato consentito neanche di esporre una bandiera nera. E nonostante tutto questo, in una società che è impregnata di cultura del martirio, come quella iraniana. In realtà la storia non finisce qui, ma comincia qua e poi si diffonde per il mondo, anche approfittando mediaticamente, no, del fattore popolare, userei dire addirittura pop, di questa vicenda. Il fatto che Neda è bellissima, che amasse cantare le canzoni della musica leggera, che fosse a tutti gli effetti un simbolo, un'incarnazione naturale di questo desiderio di interpretare la sua vita in una, nella sua nazione, nel suo paese, nell'Iran, con, secondo i ritmi, le regole, i consumi del contemporaneo. E da qua si arriva fino alla notizia spuntata poco fa, addirittura una richiesta formulata da una nota ex senatrice del PDL, Maria Burana Procaccini, che dice: chiedo che la giovane Neda venga candidata al premio Nobel per la pace. Il suo martirio è l'espressione della libertà e del coraggio di tante donne islamiche. Non so se si tratterà di premio Nobel, certamente simbologia più forte e più scomoda non poteva essere elaborata in queste ore che quello della ragazza morta per sbaglio mentre cercava un po' di aria fresca a margine di una manifestazione a cui si partecipava, perché in fondo sembrava giusto, al di là, no, della grande passionalità politica. Nel frattempo il presidente e il nuovo governo iraniani presteranno giuramento davanti al Parlamento in una data tra il 26 luglio e il 19 agosto, lo annuncia l'agenzia ufficiale iraniana IRNAN, e non viene ancora menzionato Mahmoud Ahmadinejad come vincitore, nonostante le contestazioni. Ma di fatto però la notizia più importante di tutti è che il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, organo incaricato della verifica sulla regolarità del voto per le presidenziali, ha escluso l'ipotesi di ogni annullamento del voto e ha sancito di conseguenza la rielezione di Mahmoud Ahmadinejad. Questo è detto dalla televisione di Stato iraniana. Non ci sono stati grandi brogli o grandi falle nelle elezioni, ha detto il portavoce del Consiglio dei Guardiani. I risultati non saranno annullati. Si riparte da qua, si riparte da Ahmadinejad presidente, si riparte dalle minacce sempre meno velate di repressione nei confronti di eventuali reiterate proteste. L'Iran riparte, ricomincia ad abitare gli scenari internazionali sotto questa foggia, ma in tutta questa storia non smette di apparire, come fa sulle televisioni americane, anche grazie allo straordinario fascino dei suoi lineamenti, il volto di questa ragazza che è diventata un simbolo. Battle constantly. This fight he cannot E naturalmente gli effetti collaterali della vicenda non cessano immediatamente, ci sono ancora turbolenze. Ad esempio, una turbolenza potrebbe essere definita ormai questa lettera indirizzata al ministro degli interni iraniano dai due candidati sconfitti, Karrubi e Mousavi, che avrebbero sfidato Ahmadinejad a un faccia a faccia televisivo affinché il popolo avesse la facoltà di decidere da solo. Decidere che cosa? Ormai il voto è stato sancito, accettato e ufficializzato, e nulla può essere detto. Quindi questa disputa tra moderati e conservatori, che i due sconfitti desideravano, auspicavano addirittura di portare davanti alle telecamere, non avrebbe senso e probabilmente peraltro non andrà mai in scena. Poi c'è un altro filone di notizie interessante, ma forse al tempo stesso clamoroso, ma anche dotato di una inconsistenza, nel senso che potrebbe bastare poi una semplice smentita per sgretolarlo, polverizzarlo. Di fatto alcuni media arabi insistono a parlare di voci di un impeachment di Khamenei dalla carica di suprema guida della rivoluzione, una notizia veramente enorme. Ci sarebbe un dossier a carico di Ali Khamenei, attivato in particolare da Ali Akbar Hashimi Rasfaniani, che viene definito da un quotidiano arabo oggi, viene definito la brace che Khamenei non può toccare né può rinunciare alla luce che ha sempre emanato, tirando fuori il regime da molte difficoltà in passato. Quindi un personaggio che evoca rispetto ma al tempo stesso pericolo per Khamenei. Al-Arabia riferisce dalle sue fonti che l'iniziativa Rasfaniani starebbe riscuotendo consensi tra molti membri del Consiglio dei Saggi, il Consiglio degli Esperti. Sarebbero almeno 50 gli ayatollah che avrebbero dato luce verde per l'elezione di una guida collegiale. Però anche ieri, parlando con i nostri esperti, con Negri, abbiamo capito come poi in realtà alla base anche di questa rapida sistemazione della questione delle presidenziali in Iran ci sia un asse molto più forte di quanto si poteva inizialmente supporre, che lega Khamenei a Ahmadinejad e probabilmente a altre centrali di potere estremamente significativo dell'Iran, il potere più radicato, il potere che meno esprime in modo visibile la propria volontà, ma più intensamente la rende fattiva nel momento del bisogno. Quindi anche questa notizia relativa a questa carismatica figura di Rasfaniani potrebbe rapidamente tramontare. Ce n'è un'ultima di cui voglio dare nota, riguarda Mojtaba Khamenei, che sarebbe poi il secondogenito della guida suprema della Ayatollah Khamenei, che starebbe venendo alla ribalta in queste giornate come uno dei protagonisti della repressione attuata dal regime di Teheran nei confronti dei sostenitori di Mousavi, che è una notizia anche questa magari non di grandissima intensità, ma che chiude il cerchio in quella che evidentemente è una lobby di potere molto più definita di quanto pensavamo fino a qualche giorno fa, ingenuamente. Ne parla il Guardian, il quotidiano britannico, cita fonti diplomatiche e osservatori. Mojtaba è una figura austera, è uno stretto alleato di Ahmadinejad e è considerato ancor più integralista di suo padre, a cui peraltro si può accedere solo attraverso lo stesso Mojtaba, che funge in un certo senso da guardiano, no, della guida suprema. Secondo alcuni analisti iraniani, Khamenei, 70 anni, starebbe manovrando a sua volta per posizionare il figlio come suo successore. Quindi il quadro è estremamente complesso, la casualità con cui noi lo avviciniamo in occasione di fatti drammatici come quelli di questi giorni rende necessario, come dire, una grande prudenza e anche una analisi circostanziata di tutti questi protagonisti che poco alla volta vengono alla luce, ma vengono anche in Italia, perché oggi sono venuti in Italia dei protagonisti o comunque delle personalità significative dei fatti iraniani, dei fatti politici iraniani di queste giornate. Ne abbiamo già parlato ieri annunciando l'evento, ma poi oggi Emiliano è stato sul posto. E che cosa hai visto, Emiliano? Sì. sono andato al seguito di Mohsen Makhmalbaf, forse il più famoso regista iraniano vivente, autore di Viaggio a Kandahar, direi che è il suo film più famoso. È venuto per una visita lampo a Roma, davvero lampo, perché è arrivato questa mattina e credo tra un paio d'ore già sarà sull'aereo che lo porterà lontano dall'Italia. Volutamente, ci hanno spiegato dal suo entourage, non ha incontrato cariche ufficiali né di governo né del Parlamento, forse chissà, anche le nostre istituzioni avrebbero avuto qualche problema di incontrare. Cercava i media, in questo cercava visibilità. Makhmalbaf ufficialmente è venuto a presentare un appello, è stato il primo firmatario di un appello che invitava Berlusconi, quindi il nostro governo, a non invitare l'Iran al convegno del G8 dei ministri degli esteri tra pochi giorni a Trieste, che discuterà di Afghanistan e Pakistan. Di fatto non c'è neanche bisogno di questo reclamo da parte del regista iraniano e di altri firmatari, perché Ahmadinejad ha bellamente ignorato comunque l'invito italiano, certo, quindi certo, non ci sarà la presenza iraniana, peraltro scomodissima, a Trieste. Ma poi, a quanto mi hai detto, ha trovato ha trovato quello che cercava, un'attenzione mediatica intensa, esatto, tanti microfoni. Prima si è mescolato agli studenti iraniani che hanno protestato a Piazza Santi Apostoli, a pochi metri di fatto dalla stampa estera, dalla sede romana della stampa estera, dove ha tenuto una conferenza stampa affollatissima e anche un po' particolare, perché non c'era appunto l'abituale scia di critici di cinema o di abitué dei festival, che di solito sono quelli che seguono Makhmalbaf e nelle sue imprese cinematografiche, ma c'erano appunto giornalisti che seguono la politica, gli esteri, moltissimi stranieri. Devo dire che gli italiani non erano poi tantissimi. Ho visto qualche nastro verde, qualche bandiera, qualche maglietta verde, insomma, ormai il colore simbolo della protesta per le vie di Teheran. Makhmalbaf si è presentato come portavoce, anche se non ufficiale, di Mousavi, e ha detto di essere una sorta di ambasciatore, di ponte verso l'Occidente della causa di Makhmalbaf, scusatemi, di Mousavi, che tra l'altro in questi giorni è praticamente ridotto al silenzio, quindi lui ha una comunicazione quotidiana, anche se per interposta persona, con Mousavi, e quindi si è presentato a Roma e lo farà probabilmente anche in successive tappe in Europa per raccontare che cosa sta accadendo a Teheran, per denunciare quello che lui a tutti gli effetti definisce un colpo di Stato. Devo dire che Makhmalbaf ha usato uno schema molto chiaro, molto semplice, lineare, direi impietoso nei confronti sia di Khamenei che di Ahmadinejad. Ha parlato di colpo di Stato, di golpe e quindi di voto irregolare, addirittura ha detto ci sono 12 milioni di voti irregolari in Iran in questo momento. Va bene, interessante. Adesso subito dopo le notizie della borsa ascolteremo tra l'altro una intervista, la risposta ad alcune domande che Emiliano ha posto a Mohsen Makhmalbaf. Interessante la scelta, il ponte per presentarsi a un audience, a un pubblico come quello occidentale, italiano in particolare. Utilizzare Makhmalbaf vuol dire comunque andare a colpire, a stimolare una attenzione culturale che già esiste, un rispetto che è già consolidato nei confronti di un grande intellettuale, che è un abitué ad esempio della mostra del cinema di Venezia, ben noto non solo ai cinefil ma più in genere agli intellettuali italiani, quindi probabilmente una mossa azzeccata, per quanto naturalmente è inevitabilmente di nicchia. Ma prima di arrivare all'intervista a Makhmalbaf vi facciamo ascoltare alcune voci che Savino Gallo ha raccolto per Radio 24. Sono voci degli studenti iraniani, quelli che oggi a Piazza Santi Apostoli si sono radunati per protestare, facendo eco a quello che sta peraltro succedendo in tutte le parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti, dove la comunità iraniana è robusta e numerosa e sta ormai accogliendo tra l'altro anche l'attenzione e le reazioni da parte della Casa Bianca, sia Los Angeles che New York. Si stanno facendo sentire parecchio. Sentiamo ora queste registrazioni di poche ore fa, raccolte da Savino Gallo. È successo, secondo il popolo iraniano, un broglio elettorale. Noi abbiamo votato, con tutto il rispetto della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran, e vogliamo il risultato legittimo di questa elezione. Comunque Mousavi è stato passato, controllato, sotto lo sguardo del Consiglio dei Guardiani. Sicuramente loro non fanno entrare una persona che vuole contromettersi con questo governo, questo è fatto chiaro. Perciò noi abbiamo detto sì a quello che avete scelto voi, allora perché ci cambiate i voti? I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the La Casa Bianca ha deplorato le ingiustizie, così dice il comunicato, perpetrate nei confronti del popolo iraniano che manifesta contro l'esito delle elezioni presidenziali. In Iran il presidente Obama sarebbe rimasto turbato dalle famose immagini che stanno ripassando anche ora su CNN. C'è questa serie di fotografie di primissimi piani di Neda e pare che anche Barack Obama abbia visto con estrema emozione queste immagini rubate per le strade di Teheran. E non è comunque previsto, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Ian Kelly, non è previsto un passo indietro sugli inviti indirizzati ai diplomatici iraniani relativi alle celebrazioni per la festa dell'indipendenza il prossimo 4 luglio. Non si vuole rischiare l'incidente diplomatico. Abbiamo preso la decisione strategica di aprire al dialogo con l'Iran su un certo numero di fronti. Abbiamo provato l'isolamento per diversi anni. Adesso percorriamo una strada nuova, ha detto Kelly, a cui ha fatto anche eco Robert Gibbs, il portavoce della Casa Bianca, che ha detto: la giustizia non è stata rispettata nel corso del fine settimana, abbiamo visto aumentare la violenza, il presidente è stato scioccato da ciò a cui ha assistito in televisione, stesse immagini che stanno passando anche esattamente in questi istanti, ma si va avanti. In sostanza questo conferma che il proposito, gli intendimenti espressi da Obama durante il suo discorso al Cairo costituiscono una vera e propria linea politica internazionale per l'America negli anni a venire, almeno per quello che riguarda la amministrazione Obama, verso la quale parecchi politici, soprattutto repubblicani, in queste ore stanno protestando. C'è chi dà del timido, del troppo guardingo, del passivo a Obama, esprime il proprio non gradimento per le sue scelte, ma di fatto le cose stanno così. Non vogliamo diventare un alibi per la repressione. Ha detto ancora Gibbs, il movimento di protesta a Teheran è autentico e proprio perché è autentico non vuole interferenze. Come vedete c'è un passo indietro chiarissimo, un cambio di atteggiamento profondissimo rispetto alla Casa Bianca del 2008. A margine di tutto ciò arriva anche la notizia che Hillary Clinton non sarà della partita al G8 di Trieste, al margine del quale è in programma un incontro del gruppo 5+1 sul nucleare iraniana. Si è fatta male, è cascata, si è fratturata un gomito, come sapete, ha rinunciato al viaggio. La Clinton sarà rappresentata al numero 3 del Dipartimento di Stato, William Burns. Obama invece oggi alle 6:30 risponderà ai giornalisti in una conferenza stampa. Si attendono molte domande sull'Iran. Ma ora torniamo invece alla conferenza stampa di questa mattina a Roma, a cui Emiliano ha partecipato, anche ponendo alcune domande 101 direttamente al regista Makhmal Baf, venuto a rappresentare le ragioni di Mousavi. Sì, tra l'altro a proposito di Obama ricordo che Makhmal Baf ha avuto da ridire, insomma ha criticato anche lui l'atteggiamento prudente di Obama, soprattutto lo ha invitato a non fare più l'errore dal suo punto di vista dei primi giorni, quando di fatto Obama disse che non c'era poi grande differenza nei due contendenti, certo, per la presidenza iraniana, cioè Ahmadinejad da una parte e Mousavi dall'altro. Tra l'altro invece Makhmal Baf ha voluto ricordare Neda e le altre vittime di questi giorni di sommosse e di proteste con un minuto di silenzio, che è stato forse il momento che più ha colpito tutto l'uditorio di Makhmal Baf. All'inizio gli ho subito voluto chiedere, insomma poco prima tra l'altro di entrare in conferenza stampa, di spiegarci esattamente il motivo per cui era oggi a Roma Makhmal Baf. Sono venuto qui per dare un'informazione della situazione dell'Iran e del popolo iraniano. Ruse jom'e ma yek entekhabati ro anjam dadim va be. Cioè noi venerdì abbiamo dato voto a un'altra persona, abbiamo partecipato alla votazione, abbiamo dato voto a un'altra persona, però Ahmadinejad con un colpo di Stato praticamente ha rovesciato e la gente è scesa in piazza a chiedere il suo voto e stanno massacrando la popolazione. Noi chiediamo praticamente che dare voce a questa popolazione, a questo movimento milionario, per non dare la possibilità ad Ahmadinejad di essere capo dello Stato e essere riconosciuto come Presidente della Repubblica. Quindi lei chiede sostanzialmente, nel caso specifico dell'Italia, che il governo italiano non riconosca la validità del voto di 10 giorni fa, di quasi 2 settimane fa a Teheran. Vale. Man hamino mikham va mikham begam ta dobare entekhabat zir nazar. Dice sì, finché non ci sarà una nuova elezione sotto egida delle Nazioni Unite, sotto controllo delle Nazioni Unite, non venga riconosciuto Ahmadinejad, perché lui ha fatto un colpo di Stato e noi vogliamo che in una libera elezione venga riconosciuto il governo che viene eletto dalla popolazione. Insomma, in base anche alle ultime notizie che stanno arrivando dall'Iran, sembra un proposito, come dire, ardito, no? Molto ardito. Sì, ha usato parole durissime, inequivocabili, colpo di Stato, golpe, insomma, ha definito Khamenei un dittatore, sottolineando in particolar modo come ormai ci sia uno scollamento, secondo le parole di Makhmal Baf, della guida suprema dell'Iran con il resto della popolazione. Per esempio ha detto che i giovani ormai non sono più religiosi, che per esempio anche i militari, se magari i comandanti sono con Khamenei, poi la base, il resto della truppa, dei soldati sono tutti o quasi con Mousavi. Quindi insomma l'autorità politica e religiosa in questo momento non rappresenta adeguatamente la stragrande maggioranza della popolazione iraniana, da cui la richiesta di fare nuove elezioni che, come tu hai detto Stefano, mi sembra un'ipotesi quantomeno improbabile, insomma difficile che si rifacciano i conti in Iran per queste elezioni. Bene, arriviamo alla seconda clip della nostra intervista, il famoso paragone ardito, no? Mousavi è l'Obama dell'Iran, ci dobbiamo credere, è attendibile. Sentiamo cosa ne dice il regista Makhmal Baf. In Iran fino adesso ci stavano 20% della democrazia, 80% della dittatura. Da quando c'è stato praticamente questo colpo di Stato hanno praticamente totalmente, 100% è diventato dittatura. Noi fino adesso ci avevamo praticamente bocca chiusa e orecchie chiuse, adesso ci hanno chiuso anche gli occhi e non ci fanno neanche respirare. Noi dobbiamo togliere questo bavaglio e poter praticamente respirare, almeno riottenere quel 20% della democrazia. Lei ha detto che Mousavi è l'Obama dell'Iran, però lo stesso Obama nella sua primissima dichiarazione dopo il voto, forse con un eccesso di prudenza, ha detto che non vedeva grosse differenze tra Ahmadinejad e Mousavi. Allora, dove sta l'innovazione, la rivoluzione di Mousavi, che è così l'Obama iraniano? In realtà quello che prima si diceva, se si diceva che tra Bush e Obama non c'è differenza, in realtà non era vero. Come adesso dicono che tra Mousavi e Ahmadinejad non c'è differenza. In realtà il popolo iraniano perché scende? Perché praticamente sa che con Ahmadinejad continua praticamente la guerra e questa tensione continua in vari paesi, tra cui Libano, Afghanistan e Iraq. Invece, quando arriverà, se ci sarà Mousavi, sicuramente queste tensioni saranno più lenite e sicuramente dà una speranza più alla pace. Allora, rapidamente arriviamo all'ultima breve domanda posta a Mahmoud Al-Baf, riguarda tra l'altro un'etichetta pesante che a un certo punto è calata anche sulle spalle di Mousavi da parte di chi invitava alla prudenza, non ultima l'amministrazione americana, che diceva attenzione a schierarvi in modo troppo deciso, violento, sono scenari particolari, vanno capiti, vanno compresi, vanno decifrati, i personaggi vanno collocati nel loro giusto posizionamento. Successo anche riguardo a Mousavi, vero? E quindi ho tirato in ballo la questione scomodissima del negazionismo, è possibile cui, negazionismo anche di Mousavi, certo. È ampiamente bollato, però sembra che insomma Mousavi non abbia delle posizioni poi troppo diverse. Non a caso quando il regista mi ha fatto tutto l'elenco dei paesi limitrofi con i quali con Mousavi ci sarebbe un rapporto migliore, non mi ha citato Israele, la cosa mi ha destato insomma un certo stupore, quindi gli ho fatto la domanda proprio sul negazionismo presunto anche di Mousavi. Non è assolutamente vero, in realtà quello che è successo a Ahmadinejad ha tirato fuori questo problema dell'olocausto, perché quello che era tensione tra l'Iran e l'America praticamente è spostarlo verso l'esterno. Non è vero, cioè, naturalmente lui nega che Mousavi abbia lo stesso ragionamento di Ahmadinejad. I'm half the man I used to be. E dunque la sete di libertà non potrà essere repressa a lungo, è così che il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in una intervista ai nostri telegiornali, ha spiegato come sia convinto che ci si trovi a un bivio. Se l'Iran acquisisse armi nucleari continuerebbe a minacciare e intimidire il mondo e la pace farebbe un grande salto nel buio, ma se ci fosse un cambiamento in Iran la pace riceverebbe un formidabile impulso. Questo prima di incontrarsi con Silvio Berlusconi. Si è appena concluso l'incontro con una comunicazione congiunta dei due premier. Tra l'altro si è venuto a sapere che Berlusconi è stato invitato a parlare alla Knesset, ma di tutto questo ci può dire, dopo averlo visto con i propri occhi, Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore in Medio Oriente, che sta seguendo la visita di Netanyahu a Roma. Buon pomeriggio Ugo, grazie. Buongiorno. Ma si è parlato di Iran nel corso del testa a testa Berlusconi-Netanyahu? Caspita, Netanyahu non è parso vero poter avere, nemmeno se l'avesse voluto, sarebbe riuscito ad avere quel risultato elettorale iraniano. I giornali israeliani, un famoso analista israeliano, un giornalista molto importante israeliano, qualche giorno prima dell'elezione esortava i lettori dei giornali israeliani dicendo: se avete dei parenti in Iran invitateli a votare per Ahmadinejad, perché certo, appunto per Israele. Ovviamente con questo Netanyahu ha potuto evitare di parlare dei suoi doveri, certo, rispetto, certo, al processo di pace. Sì, credo che almeno dal punto di vista di Netanyahu sia stato centrale questa cosa, ma credo che sostanzialmente gli italiani si siano dovuti anche un po', il governo Berlusconi, anche come dire, legare all'ortodossia, come dire, americana. Cioè, adesso sì, c'è un presidente degli Stati Uniti diverso, che ha una politica diversa. Noi italiani non possiamo cercare di fare una politica ponte fra Israele e gli Stati Uniti. La politica alla quale ci dobbiamo adeguare è quella dell'amministrazione Obama, appunto. Anche se Berlusconi in qualche modo ci ha un po' provato, cercando appunto di dire, di parlare come assolutamente certi e fissi, la questione dell'ebraicità dello Stato di Israele, mm-hmm, e della smilitarizzazione totale di un eventuale Stato palestinese, che in realtà sono parte di un negoziato, mentre invece Berlusconi in qualche modo l'ha messo come un dato di fatto. In realtà poi gli Sherpa ci hanno spiegato che non è andato così nel colloquio. A Berlusconi piace sempre piacere ai suoi interlocutori, certo, certo. In realtà poi nei colloqui politici veri e propri a porte chiuse Berlusconi si è molto adeguato alla linea un po' che in qualche modo sia Hillary Clinton sia ancora di più Barack Obama la settimana scorsa a Berlusconi aveva dettato nella visita appunto alla Casa Bianca. Quindi una sostanziale rappresentazione ai nervi distesi alla esposizione mediatica dei due premier, ma sotto sotto non sei convinto che ci sia stata tutta questa, no? Questa simbiosi nel corso dell'incontro? Ma noi avevamo già, ospitando per primi al mondo, Lieberman, il primo ministro degli esteri israeliano, il famoso, mitico o penoso Lieberman, ancora non si sa, perché forse Lieberman è probabilmente la persona più pragmatica del governo di ultradestra di Bibi Netanyahu, già avevamo dato una grande apertura a Israele, una grande disponibilità come amici. In effetti noi tra gli europei siamo i migliori amici di Israele, come dire, mettendo in gioco la nostra amicizia nella speranza di convincere gli israeliani ad avere un atteggiamento diverso, più malleabile nei confronti del processo di pace. Credo che questa volta siamo stati un pochettino leggermente più duri dell'altra volta. Abbiamo ricordato in qualche modo anche a Bibi Netanyahu i suoi doveri, anche se Berlusconi ha elogiato il discorso che Bibi Netanyahu ha fatto la settimana scorsa all'Università di Bar-Ilan di Tel Aviv, ricordando, sottolineando il fatto che Netanyahu ha parlato di Stato palestinese. Forse diplomaticamente come ospite non ha ricordato che Bibi, parlando di Stato palestinese, poi ha posto una serie di steccati per i quali lo Stato palestinese non nascerà mai. Certo. Grazie a Ugo Tramballi di questa sintesi. E poi, come dicevamo, tutto si è concluso con un invito al più alto vertice di Israele, una cosa a cui Berlusconi è certamente sensibile. È partito questo invito a parlare alla Knesset, lo stesso Berlusconi lo ha detto: il primo ministro mi ha invitato in Israele per il primo vertice, mi ha dato l'onore di parlare alla Knesset, sarò molto lieto di andare a visitare un amico in un paese amico che resterà amico per molti anni. Era Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, sta seguendo la visita di Netanyahu. E questo era Jefferson 2, l'arte della svolta di oggi. Sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Alessandro Chiappini, a Roma Pietro Lacorte, a Milano. Jefferson 2 è trade24.it, è la mail per scriverci. Le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Replica a mezzanotte, il podcast sul sito della radio, la diretta dopo le 4 qui su Radio 24. Ci sentiamo.